Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Addio al grande compositore Ennio Morricone, morto all'età di 92 anni, il genio delle colonne sonore, premio Oscar nel 2007. La Camera inizia l'esame del decreto rilancio, stasera in Consiglio dei Ministri il provvedimento sulle semplificazioni. Coronavirus, la Spagna chiude in Galizia, contagio in crescita nelle Americhe, lettere di 239 esperti all'OMS, il virus è ancora molto contagioso. Sbarcata a Porto Empedocle la Ocean Viking, le 180 persone salvate in mare presto a bordo della nave quarantena Moby. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la morte di Ennio Morricone, poi il decreto semplificazioni in Consiglio dei Ministri, l'emergenza coronavirus con la Spagna che chiude ancora e poi parleremo della possibilità di fare il TSO per casi come quello dell'imprenditore vicentino, ma più avanti. Adesso, come avete sentito, è scomparso all'età di 92 anni Ennio Morricone, il grande compositore, era ricoverato in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. I funerali, fanno sapere i familiari, si terranno in forma privata nel rispetto di quel sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti di Ennio Morricone da vivo. Sentiamo. Se n'è andato il maestro Ennio Morricone. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Creatore di leggendarie colonne sonore, il grande compositore si è spento oggi all'alba nella sua città, Roma. Il prossimo 10 novembre avrebbe compiuto 92 anni. Una carriera lunghissima la sua, per la quale ha ricevuto l'Oscar nel 2007 dalle mani di Clint Eastwood e a gennaio di quest'anno quello in Senato dalla presidente Casellati. Figlio di un trombettista, diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, nello stesso strumento e in direzione d'orchestra, Morricone apparteneva al ristretto pantheon dei più grandi musicisti del cinema di sempre. Da Per un pugno di dollari a Mission, da C'era una volta in America a Nuovo Cinema Paradiso, a The Hateful Eight, con cui ha vinto un Oscar nel 2016, solo per citare qualcuna delle bellissime colonne sonore scritte per alcuni dei più grandi registi internazionali. Ha composto più di 500 melodie, per lo più indimenticabili, e non solo per il cinema, ma anche per la televisione. Come arrangiatore della RCA da giovane ha contribuito anche al sound di molti artisti italiani degli anni 60, da Edoardo Vianello a Gino Paoli, a Mina, con brani come Abbronzatissima, Guarda come dondolo, Sapore di sale, Se telefonando, brani che sono rimasti nella storia della musica italiana. I funerali del maestro Morricone si terranno in forma strettamente privata a Roma. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo il commento di Armando Torno. La scomparsa di Ennio Morricone, premio Oscar alla carriera, lascia un grande vuoto nella musica italiana. Fu un compositore che quasi tutti conobbero per i suoi film, per quello che riuscì a ideare, a creare e a dare a determinate regie, alle collaborazioni con Sergio Leone e con molti altri. Tuttavia non bisogna dimenticare che Morricone era un genio tutto particolare, aveva una sua concezione della musica, diceva che nasceva dal talento, non dalla sofferenza. Era convinto che la musica dovesse accompagnare le scene dei film, che non fosse una creazione che dovesse disturbare le scene, ma dovesse spiegarle, accompagnarle, farle capire. Per questo tutti coloro che creano musica da film o per film sono dei compositori particolari che in qualche modo hanno in Ennio Morricone un loro protettore, un loro santo ideale. Perché bisogna essere delicati, capaci, pungenti, profondi e nello stesso tempo scomparire di fronte alle immagini e farle capire. Ecco, Ennio Morricone era questo, un genio che si è riconosciuto tale in tarda età, ma che indubbiamente sapeva cosa fosse la musica e cosa fossero i film. E ora le altre notizie, cominciamo con la pagina politica. L'aula della Camera inizia la discussione generale sul decreto rilancio oggi. A quanto si apprende, il governo porrà la fiducia nel pomeriggio sul provvedimento. Per stasera invece è stato convocato il Consiglio dei Ministri con il decreto semplificazioni. Taglio delle tasse per lavoratori e imprese, ma senza alcun condono. E poi investimenti in scuola, ricerca, trasporti e banda larga. Previsto anche il sostegno ad alcuni settori strategici che vanno dalla farmaceutica al biomedicale, dall'auto alla siderurgia, dall'edilizia al turismo e alla cultura. Sono queste alcune delle priorità identificate dal governo e inserite nel piano nazionale di riforme base del recovery plan da varare a settembre per utilizzare le risorse anti-Covid. La crisi è stata devastante, non c'è tempo da perdere, è necessario evitare una fase di depressione economica, scrive il ministro dell'economia Roberto Gualtieri nelle premesse del piano riforme che arriverà questa sera in Consiglio dei Ministri. Sul tavolo della riunione di governo ci sarà anche il decreto semplificazioni sul quale la maggioranza è al lavoro per trovare un'intesa. Il provvedimento potrebbe così essere approvato con la formula salvo intese, dice a 24 Mattino il capogruppo PD alla Camera Graziano Del Rio. Penso che ci sarà una intesa di massima e quindi ci sarà un cosiddetto salva intese, che significa che il testo uscirà dal Consiglio dei Ministri ma poi potrà essere soggetto a ulteriori modifiche nei prossimi giorni per le osservazioni ulteriori dei ministeri. Immagino che sarà così, come per tutti i provvedimenti un po' complessi, diciamo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Autostrade liguri ancora oggi bloccate per i cantieri aperti dopo la messa in sicurezza delle gallerie. 11 km di coda sulla 12, 10 sulla A26 tra Masone e il Bivio per l'uscita Genova Ventimiglia. Il governatore della Liguria Toti ancora una volta interviene, dice: la Liguria non può restare ostaggio di una guerra tra governo e ASPI che dura dal giorno dopo il crollo del ponte Morandi. Adesso le notizie sul coronavirus. Cominciamo con questa lettera appello di 239 esperti rivolta all'OMS, in cui questi esperti parlano della pericolosità ancora attuale del virus. Il Covid-19 si trasmetterebbe anche per via aerea. A sostenerlo, una lettera aperta firmata da 239 esperti di 32 paesi, che chiede all'Organizzazione Mondiale della Sanità di rivedere le proprie raccomandazioni sul coronavirus. Se l'ipotesi fosse verificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sarebbero importanti conseguenze sulle misure di contenimento del virus. Gloria Tagliani, docente di malattie infettive alla Sapienza di Roma. Se una gocciolina pesante cade inesorabilmente e resta a terra, è sufficiente mantenere la distanza tra una persona e l'altra ed è sufficiente interrompere la emissione di goccioline con la mascherina e poi detergere le superfici. Se invece noi supponiamo che il virus venga risospeso in aria, allora dobbiamo mettere in atto delle misure più specifiche, come per esempio quelle che vengono prese nei confronti del bacillo della tubercolosi. La mascherina a quel punto non deve essere indossata soltanto nelle distanze ravvicinate, ma sempre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora vediamo i dati del contagio nel mondo. Nuovo lockdown in Spagna, in Galizia, stato d'emergenza dichiarato invece in Israele. La situazione resta poi particolarmente preoccupante tra Stati Uniti, Messico e Brasile. Nel mondo i casi confermati di coronavirus sono ormai 11 milioni e mezzo, le vittime più di 530.000. Gli USA rimangono il paese più colpito con oltre 2 milioni e 800 mila casi, seguiti dal Brasile e dall'India, che è ormai scalzato con i suoi quasi 700 mila contagi. Dal terzo posto la Russia, triste classifica che vede entrare al quinto posto il Perù con ormai più di 300 mila casi. Il virus torna a circolare anche in Australia, che ha chiuso il confine tra i suoi due stati più popolosi dopo un picco di infezioni a Melbourne. E mentre l'Arabia Saudita annuncia nuove regole per l'imminente pellegrinaggio alla Mecca, a cui non potranno partecipare più di 1.000 fedeli, in Europa il virus non molla, con la Spagna che dopo la Catalogna è al secondo lockdown in Galizia e l'Austria che si ritrova per la prima volta dal 19 maggio sopra soglia 1.000 contagi. In Italia, dove ieri i casi sono scesi a quota 192, l'ultimo cluster riguarda 5 attività tra macelli e salumifici del Mantovano, che hanno registrato 68 dipendenti positivi, un focolaio che segue a ruota il caso Veneto, che ha scatenato l'ira del governatore Zaia, con imprenditore rientrato dalla Serbia risultato positivo che ha rifiutato il ricovero contagiando altre persone. Zaia ha minacciato misure restrittive proponendo il trattamento sanitario obbligatorio per chi non accetta le norme anti-Covid, misura che è finita all'attenzione del ministro della Salute Speranza, che ha dato mandato per verificare il quadro normativo inerente il TSO. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La nave Ocean Viking, con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali, è arrivata stamattina a Porto Empedocle, dove si trova ormeggiata senza però essere entrata in porto. Le operazioni di trasbordo delle persone sulla nave quarantena Moby saranno effettuate sempre in rada. Anna Marino ha sentito su questo Francesco Creazzo, portavoce di SOS Mediterraneo. Ricordiamo che il diritto internazionale prevede che nel momento in cui viene coordinato il soccorso in mare deve essere assegnato un porto sicuro immediatamente. Noi invece questo è l'undicesimo giorno, questa cosa è una violazione del diritto internazionale. Sicuramente non si può puntare il dito contro l'Italia, ma è una responsabilità evidente e chiara dell'Europa, che ha mancato nuovamente di solidarietà nei confronti degli stati costieri, ossia Italia e Malta, girandosi dall'altro lato. Nonostante gli accordi di Malta, che sono stati sospesi per la crisi Covid, ma in realtà mai entrati pienamente in vigore. In quali sono appunto le condizioni? Sulla nostra nave ci sono stati 6 tentativi di suicidio. Timore principale di queste persone è di essere riportate in Libia, lo dicono chiaramente, noi preferiamo morire. La frase che ripetono più spesso è la Libia è l'inferno, la Libia è l'inferno. Ancora un aggiornamento di cronaca, vasta operazione antidroga tra le province di Milano e Reggio Calabria da parte dei carabinieri che stanno eseguendo 17 ordinanze di custodia cautelare. Adesso siamo allo sport con un weekend sportivo, un altro pezzettino di normalità recuperata oltre al calcio, semi-normalità, anche la Formula 1. Carlo, ciao Carlo. Sì, ciao Alessio, ciao a tutti. Ci siamo divertiti parecchio al primo Gran Premio stagionale, tanto che non vediamo l'ora che sia di nuovo il prossimo weekend, stesso posto, stessa ora, stesso luogo, Austria, bis remake della corsa che abbiamo visto ieri e che è stata vinta sì dalla Mercedes, ed era facilmente prevedibile, non da Hamilton ma da Bottas. Hamilton 2 volte penalizzato in partenza e poi nel corso della gara, ma soprattutto una straordinaria gara di Leclerc, che è andato molto oltre il valore della Ferrari, che destra qualche preoccupazione, un po' come l'Inter per i tifosi interisti. Insomma, tante aspettative, ma ieri Inter battuta in casa dal Bologna, era già molto lontana dalla Juventus, da ieri irraggiungibile, e avvicino l'altra nerazzurro, cioè quella dell'Atalanta. Atalanta, che non sbaglio un colpo, ha vinto anche a Cagliari in serata. Ancora Napoli sulla Roma, che ritrova Zaniolo ma non i punti in classifica, perché perde ancora 2-1 con un gol bellissimo di Insigne e Fonseca sotto processo. Processi a Inter e Roma che faremo oggi, parleremo di Formula Benissimo. 1 e di tutte queste altre cose. Grazie Carlo, appuntamento naturalmente alle 14 con lo sport su Radio 24. Noi facciamo un piccolo break adesso, invece torneremo tra poco. 349-238-6666, ripartiremo dalla proposta TSO per chi rifiuta il ricovero in caso di positività al Covid. Ne parleremo con un esperto. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Prima di rinnovare l'assicurazione auto, vai su prima.it e scopri se puoi risparmiare. Calcola un preventivo in 30 secondi e scegli la comodità del pagamento mensile. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Fai click su prima.it. Come prima, più di prima, t'amerò. Effetto giorno. Oggi in primo piano la morte di Ennio Morricone, avrebbe compiuto 92 anni a novembre. La Camera inizia l'esame del decreto rilancio e stasera semplificazioni in Consiglio dei Ministri. Coronavirus, la lettera appello di 239 scienziati fa ancora paura. Il Ministro della Salute Speranza, valutiamo il TSO per chi non rispetta gli obblighi sanitari, ne parliamo tra poco con l'ex Ministro Balduzzi. Le 13:16, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. La notizia è questa: il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta valutando l'ipotesi di utilizzare il TSO per chi rifiuta le cure in caso di positività al Covid. E questo dopo il caso dell'imprenditore vicentino che, nonostante fosse positivo, avrebbe continuato a fare un po' la vita di sempre, di sicuro ha rifiutato un ricovero e nonostante sintomi evidenti, poi adesso però si trova ricoverato in rianimazione, in condizioni condizioni gravi ma stabili. Ne parliamo con il professor Renato Balduzzi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ex ministro, esperto di diritto sanitario, docente alla Cattolica del Sacro Cuore. Professor Balduzzi, allora il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, partiamo da qua, cerchiamo di definire lo strumento. È uno strumento particolare, no? Si sottopone delle persone a degli interventi sanitari contro la sua volontà per determinate emergenze, per determinate ragioni. Normalmente a quali casi, in quali condizioni si fa ricorso al TSO? Certo, è proprio la non volontarietà che lo caratterizza e si fa ricorso, l'esempio classico è proprio quello che è previsto anche nella normativa vigente, nella legge 833, quella istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che riguarda i casi di malattie, no? Questo è il paradigma classico del trattamento sanitario obbligatorio, con un intervento del sindaco, una convalida successiva e la necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria, del giudice tutelare, proprio perché le caratteristiche dell'intervento sono tali da rendere evidentemente indispensabile nel sistema costituzionale che vi sia l'intervento del magistrato. Quindi, questo è il modello, sì, del TSO. Quindi per attivarlo tocca, se abbiamo capito bene, al sindaco, poi però ci vuole un passaggio della magistratura, deve intervenire probabilmente anche le forze di polizia e poi la persona viene curata. Questo è il, diciamo, sì, l'iter. Certo che per parlare di TSO in senso proprio, in senso stretto, per quanto riguarda l'avvenimento cui lei faceva accenno, è nei casi in cui vi sia l'obbligo di ricovero anche. Sì. Se invece c'è solo una coattività della permanenza domiciliare, in senso stretto non sarebbe TSO, ma richiederebbe comunque, essendovi una coattività, richiederebbe comunque una procedura analoga a quella dei TSO. Ecco, da notare che non è che adesso l'ordinamento non prevede nulla, perché è vero che c'è una obbligatorietà che se non viene rispettata, no, della quarantena, sì, di determinate cautele, comporta una sanzione contravvenzionale, però è anche vero che è fatto salvo evidentemente quando si sia in presenza di reati, e teniamo conto che quei comportamenti sono passibili di essere sottoposti al regime. Ci sono delle conseguenze penali, perché ci sono attualmente dei decreti. Ecco, dell'epidemia, che può essere addirittura dolosa oppure colposa. Ecco, quindi, cioè, non è che l'ordinamento. Sì, non siamo privi di strumenti in questo momento per imporre. Però mi spiega perché, se ho capito bene, lei in qualche modo, adesso il Ministro della Salute ha detto che valuterà la possibilità di fare di ricorso al TSO. È una cosa che è stata chiesta, evocata credo per primo dal presidente del Veneto Zaia, sulla scia di questo imprenditore che si è lasciato dietro una scia di 5 contagiati, 89 persone in isolamento. Però mi sembra di capire che lei non pensa che effettivamente si possa adottare il TSO per casi come questi. Secondo lei la valutazione qual è da fare? No, io mi limitavo a dire che in senso proprio TSO richiede appunto che vi sia un trattamento, l'obbligo di un trattamento sanitario, quindi nel caso in cui vi sia l'obbligo di un ricovero coatto sarebbe ovviamente TSO. In altri casi dove ci sia l'obbligo di una quarantena, per esempio, di una quarantena, quello che già l'ordinamento prevede, non sarebbe tecnicamente un TSO. Che cos'è la differenza? È che adesso la quarantena è obbligatoria, ma non c'è una coazione, una coercizione, no? Immagino che il Ministero stia studiando la possibilità di individuare anche per la quarantena obbligatoria una coercizione, immagino, ecco, perché non ho ovviamente informazioni ulteriori. Il trattamento sanitario obbligatorio in senso proprio sarebbe dove accanto alla quarantena obbligatoria ci sia però un obbligo di ricovero, quindi un obbligo di un trattamento appunto sanitario rispetto alla persona destinataria di questo adempimento, di questo obbligo. Quindi... Però scusi, per chiarire in ultima istanza, il suo punto di vista di esperto di diritto sanitario, ex ministro tra l'altro, è in questo momento persona che in qualche modo può dare un giudizio anche proprio sull'applicabilità di questa norma, senza diciamo entrare anche nel merito di polemiche politiche, per esempio, che ci possono essere tra governo regionale, in questo caso il governo nazionale. Il suo punto di vista, diciamo, nella fattispecie del mancato ricovero, perché questa persona è andata in ospedale, poi non si è voluta ricoverare, poi i familiari dicono che non ha diciamo, violato la quarantena, è stato a casa. Questo è un punto, diciamo, in discussione, però di sicuro non ha accettato il ricovero. In questo caso, su questo aspetto specifico, per lei potrebbe scattare il TSO? Nel caso in cui la norma prevedesse un obbligo in queste condizioni di ricovero e naturalmente proceduralizzasse, così come già adesso è proceduralizzato negli articoli 33 e seguenti della legge 833 del 78, potrebbe essere configurato, e credo che sia su questo che il Ministero stia studiando una estensione di quelle regole. Potrebbe essere una normativa ad hoc o una normativa che faccia rinvio alle regole già vigenti. Ecco, tutto questo ovviamente secondo il cappello complessivo dell'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e che in ogni caso la legge non possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo è il cappello complessivo di garanzia della nostra Costituzione, che è una garanzia evidentemente a tutela del singolo e a tutela della collettività. Grazie professor Balduzzi, grazie per essere stato con noi. Buona giornata a tutti, grazie a voi. E va bene, staremo a vedere gli sviluppi del caso Veneto, e poi insomma, anche se effettivamente poi l'analisi del Ministro della Salute Speranza porterà a questa conclusione, cioè un rafforzo normativo che possa in qualche modo dare ai sindaci la possibilità di attivare il TSO in casi come questi, che però avete sentito sono ancora in valutazione, dubbi, perché il TSO in realtà si applica soltanto quando c'è un trattamento sanitario che si ritiene appunto essere come dire, improrogabile, obbligatorio appunto, e quindi di lì poi si ricorre alla, come dire, limitazione della volontà della persona. Alle 13:24 adesso parliamo di un altro argomento, vi raccontiamo una storia che è accaduta a Grosseto. Accade che un ragazzo disabile non abbia potuto fare una ecografia, lui è un tetraparaplegico, perché una volta arrivato in ospedale, dopo aver prenotato regolarmente il suo intervento al CUP, nell'ambulatorio dove si è trovato, i medici e gli infermieri presenti non sono stati in grado di trasportarlo dalla sua carrozzella fino al lettino dove fare l'ecografia, e quindi questo ragazzo ha denunciato questo fatto. Ne parliamo con il dottor Massimo Forti, che è direttore sanitario dell'ospedale in questione, Misericordia di Grosseto. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, dottor Forti. Senta, ci spiega se effettivamente quello che ha denunciato il ragazzo corrisponde al vero, come è stato possibile che succedesse questa cosa, cioè regolare prenotazione, il ragazzo è arrivato lì e poi non è stato possibile farlo. Certo, è anche un'occasione per noi come sistema sanitario di poter dare ulteriori notizie oltre a quelle già date dalla Regione Toscana. Mi spiego meglio. Questo ragazzo ovviamente è affetto da delle patologie che in qualche modo ne limitano la mobilità. Esiste un progetto a livello anche di Regione Toscana, e proprio di sito, che è stato ampiamente pubblicizzato, ma probabilmente andrà fatto ancora di più, che è il progetto PASS, è il progetto assistenziale per soggetti con bisogni speciali. Quindi ovviamente l'ospedale, quando il soggetto in qualche modo fa presente prima di quelli che sono i suoi bisogni assistenziali, anche per una semplice ecografia come in questo caso, viene ovviamente preso in cura con tutte le attenzioni del caso. Se serve più personale, possono servire degli ausili maggiori o minori per lo spostamento, e quindi viene dato un appuntamento ad hoc preparandoci di quello che è il bisogno assistenziale di quello specifico soggetto. In questo caso probabilmente l'informativa non è trapelata, e quindi su questo l'informativa a livello telefonico No, all'informativa proprio anche agli operatori, media, proprio all'utenza dalla regione toscana a livello nazionale, perché il progetto PASTE ci registriamo. Però mi scusi, dottor Forti, sì? Io capisco la procedura, però il ragazzo ha detto che al telefono, quando ha prenotato l'intervento, ha specificato chiaramente qual era la sua condizione e quindi diciamo ha specificato il caso. Loro gli hanno detto che questo però non era un tema di loro competenza. Allora qua c'è un problema, o il ragazzo non dice il vero, oppure c'è un problema che dovete formare i centralini del CUP, professionalizzarli in maniera diversa. Assolutamente, l'informazione in primis anche al nostro interno è essenziale, tant'è che l'utente che fosse effettivamente stato preso in carico con le notizie che ci dice di aver dato nel momento della rotazione avrebbe avuto tutti gli ausili e il personale di supporto necessario. In questi casi, come abbiamo fatto venerdì scorso quando l'utente ha parlato con una collega della direzione del presidio ospedaliero, verrà ricontattato quanto prima per un appuntamento ovviamente in cui saremo in grado di evadere la sua richiesta. A onor del vero, questo utente deve effettuare, l'avete detto voi stessi, un'ecografia. Ha già fatto anche altre prestazioni anche più approfondite dell'ecografia stessa, quindi diciamo non è un esame tra virgolette anche indispensabile al momento, però noi lo ricontattiamo prima possibile con tutti gli ausili, lo abbiamo invitato anche a verificare, a registrarsi sul portale, più che altro anche come conoscenza per quanto riguarda la nostra utenza, e questo, su questa ragione anche lei, bisogna che anche gli operatori sanitari, laddove il messaggio non sia permeato... E soprattutto, mi scusi se mi permetto, dottor Forti, proprio per quanto riguarda in particolare gli operatori del CUP, perché sa che il centralino è il primo e unico filtro che le persone hanno prima di arrivare poi a fare la prestazione per quanto riguarda il sistema sanitario, ma vale un po' per tutto ormai in Italia. E allora, in questo caso particolare dei sistemi sanitari, occorre che siano formati correttamente. Io ringrazio il dottor Forti, anche perché, giusto in chiusura, per citare una notizia di oggi, c'è una ricerca fatta in 5 paesi europei in base alla quale il 55% delle persone ha paura di recarsi in ospedali, pronto soccorsi, anche a fare delle visite per il Covid. Se poi ci mettiamo anche di servizi come questi, finisce che nessuno si cura più e non va bene. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Tra poco torniamo dopo l'informazione di borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Addio al grande compositore Ennio Morricone, il genio delle colonne sonore e premio Oscar nel 2007. Avrebbe compiuto 92 anni a novembre. La Camera inizia l'esame del decreto rilancio e stasera semplificazioni in Consiglio dei Ministri. Coronavirus, la lettera aperta di 239 scienziati fa ancora paura. Brescia si costituisce l'automobilista che ha investito una famiglia sulle strisce. Sbarcata a Porto Empedocle la Ocean Viking, le 180 persone salvate in mare presto a bordo della nave quarantena Moby. 13:35 minuti, cari ascoltatori, giusto il tempo di un'ultima ora, una notizia di pochi istanti fa che avete sentito dai titoli. Effettivamente, dopo il dramma di una famiglia investita ed è morta una bambina di 9 anni a Bagnolo Mella, poco fa si è saputo che si è costituito in procura l'investitore della bambina di 9 anni che è stata travolta e uccisa ieri sera nel Bresciano. Secondo le prime informazioni si tratta di un italiano. Le indagini sono affidate al sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo. Adesso è il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Siamo così occupati a guardare avanti, a correre dietro alle anticipazioni del decreto semplificazioni, del piano nazionale delle riforme, della riscrittura del fisco, che quasi quasi sembra un déjà vu il via libera al decreto rilancio che arriva oggi. Eppure è quel decreto mostro di oltre 260 articoli che avrà bisogno di una novantina di provvedimenti attuativi, per lo più abbinato al cosiddetto super bonus per l'edilizia. Il decreto in verità porta un nome inadatto, perché non pensa al rilancio, ma distribuisce i sussidi necessari nella fase dell'emergenza, quando l'economia era congelata data da lockdown e il passaggio parlamentare ha aumentato la percezione che quel testo sia una coperta patchwork per tacitare questo o quel gruppo di pressione con un bonus mirato, con un credito d'imposta calibrato o con una semplice erogazione diretta su misura, bonus biciclette monopattini, bonus nonni, babysitter, congedi parentali estesi, cassa integrazione prorogata, scadenze fiscali posticipate, assunzioni nella scuola, bonus per le auto ecologiche o per le vacanze. È il decreto che rende l'idea di un'Italia fondata sul sussidio, che poi quando lo devi chiedere scopri che è molto più complicato del previsto, ma è anche la fotografia di una politica frastornata, sempre nel frullatore della ricerca del consenso, senza sapere quale sia la vera direzione e quali siano le priorità.